Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera parliamo di una donna straordinaria, Margaret Thatcher, l'ex primo ministro inglese che guidò il suo paese tra il 1979 e il 1990, che ci viene presentato nel libro Margaret Thatcher, biografia della donna e della politica, di Elisabetta Rosa Spina, inviata del Corriere della Sera, pubblicato da Mondadori, 276 pagine, 22 euro. Questa è una biografia che svela aspetti inaspettati anche su una personalità che è centrale nella storia del Novecento, una personalità di cui forse pensiamo di sapere tutto, ma che dietro alla facciata della Dama di Ferro nasconde ancora molti aspetti anche di insicurezza che attribuiscono nuove sfumature al suo profilo. Lei stessa si era definita appunto Dama di Ferro in un incontro con i suoi primi elettori conservatori, ai quali aveva detto: «Sì, io sono una Dama di Ferro, se è così che loro vogliono interpretare la mia volontà di difendere i valori e le libertà fondamentali per il nostro modo di vivere». E il loro, spiega l'autrice, erano gli odiosi bolscevichi trincerati al Cremlino. Un personaggio che la Thatcher aveva costruito con una volontà ferrea fin dalla giovinezza modesta nella casa del padre droghiere. E allora sentiamo dall'autrice come Margaret Thatcher diventò la Dama di Ferro. Buonasera a Elisabetta Rosa Spina. Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori. Elisabetta Rosa Spina, lei inizia il suo libro accennando alla formazione di Margaret Thatcher e alla ferrea volontà che la grande politica sempre dimostrò. Quali furono i valori che formarono la personalità della Thatcher? Lei a un certo punto all'inizio accenna per esempio a una grande sobrietà, la regola familiare mai trasgredita era quella di vivere al di sotto delle proprie possibilità. Quanto si riflesse questo sulla sua formazione e anche poi sulle sue convinzioni in campo economico? Ma senza dubbio le origini di Margaret Thatcher, di cui lei era molto orgogliosa, sono state l'origine anche della sua formazione politica. Era figlia di un droghiere delle Midlands orientali, quindi della provincia inglese, che era anche metodista, predicatore, aveva quindi delle idee assolutamente rigide su quello che fossero, diciamo, idee vittoriane su quelli che fossero i valori della famiglia, i valori del risparmio, il valore della buona gestione economica, in questo caso del negozio. Margaret Thatcher, con la madre e la sorella, viveva sopra questo negozio, facendola sorridere quando entrò a Downing Street, perché anche in quel caso gli uffici del primo ministro erano a pian terreno, la residenza privata nell'attico, quindi esattamente come a Grantham, dove è nata e dove è cresciuta. Il padre la portava con sé alle conferenze, alle prediche che teneva come metodista, e quindi lei seguiva le idee paterne in diretta, che è cresciuta ascoltandole e ascoltandole anche a casa, dove il padre indubbiamente era molto attento all'educazione delle due figlie. Quindi il principio era che i conti dovessero quadrare sempre e comunque. Dovevano quadrare i conti della drogheria, per Margaret Thatcher dovevano quadrare poi i conti dello Stato. E c'è anche un altro insegnamento che suo padre però le diede: non fare mai qualcosa soltanto perché tutti gli altri la fanno. E qui lei commenta: Margaret finì per considerarla una delle migliori lezioni di vita, muoversi sempre controcorrente. Sì, controcorrente, o comunque senza tenere conto più che dell'opinione, del favore del pubblico. Lei non era interessata a piacere ai suoi elettori, non era interessata a piacere ai suoi interlocutori, ai suoi ministri, era interessata a convincerli della bontà dei suoi progetti. Aveva una doppia laurea, era laureata in chimica e laureata in legge, con l'idea di diventare, se non fosse riuscita a entrare in politica, avvocato fiscalista, quindi aveva una visione piuttosto precisa di quello che dovesse essere il futuro del paese, l'impostazione del paese, e lo faceva indipendentemente dai sondaggi di gradimento nei suoi confronti. E anche era pronta a diventare impopolare tra gli inglesi, tra i britannici, e impopolare nel suo stesso governo, ed è stato questo che alla fine l'ha portata all'isolamento e l'ha costretta alle dimissioni. È stata isolata dal suo stesso partito, alla fine non è stata mai sconfitta alle elezioni generali, è stata messa in minoranza dai Tories, dagli stessi conservatori. E non era interessata a piacere, lei diceva poco fa, però era interessata a convincere. Infatti la comunicazione ebbe una grande importanza nel suo modo di far politica. Sì, di questo si rese conto appena diventò leader dell'opposizione, a metà degli anni 70, e fu consapevole che per esempio la sua voce non era all'altezza della situazione, che la sua voce, l'impostazione della sua voce e alcuni acuti che aveva, soprattutto quando si infervorava, potevano risultare fastidiosi. Quindi si affidò a un'agenzia di pubblicità, la Saatchi & Saatchi, che si preoccupò di modificare un po' il suo aspetto, cercando di convincerla, senza riuscirci, a togliersi il filo di perle. Riuscì a modificare il suo aspetto e riuscì soprattutto con dei corsi di dizione teatrali a modificare la sua voce e l'impostazione della sua voce. Perché effettivamente Margaret Thatcher non si preoccupava di piacere per quanto riguarda le sue idee e il suo operato, però era molto femminile e quindi ci teneva a piacere, a risultare gradevole dal punto di vista dell'aspetto, del suo abbigliamento, di come si presentava, questo sì. Dunque Margaret Thatcher non voleva piacere, non voleva seguire le elezioni, però le elezioni le vinse nel 1979, anzi queste sono le parole che disse quando arriva a Downing Street. Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope. Ecco, come fece secondo lei a vincere a sorpresa di tutto il mondo queste elezioni? Ma intanto le prime elezioni lei le affrontò in un momento in cui la Gran Bretagna era in enormi difficoltà, c'erano scioperi che duravano da mesi, addirittura i becchini erano in sciopero, non si riuscivano a seppellire i morti, gli ospedali erano in sciopero, i trasporti erano in sciopero. Quindi indubbiamente la Gran Bretagna vide in lei la persona che aveva le idee chiare su come uscire da quella situazione. E lei le aveva soprattutto con un obiettivo, che la sua bestia nera è sempre stato il comunismo, l'Unione Sovietica, ma in cima alla lista dei suoi avversari c'erano i sindacati. Quindi la sua prima preoccupazione fu togliere potere ai sindacati, limitare la possibilità di sciopero, ed è stato quello che poi l'ha portata ai confronti diretti con i minatori, con il sindacato dei minatori, che tradizionalmente vincevano sempre i bracci di ferro col governo, con lei non ci sono riusciti. E altre elezioni, come quelle subito dopo la guerra delle Falkland, le ha vinte proprio per aver vinto la guerra con le Falkland, quindi aveva risvegliato questo spirito patriottico tra i britannici, che è bastato, diciamo, a sollevarla da una situazione di difficoltà economica. Anche lì la disoccupazione era alta, l'inflazione era alta, quindi aveva difficoltà oggettive per presentarsi alle elezioni, però le vinse comunque. Anzi, nell'87 ha vinto con, veniva ricordato di recente, più o meno la stessa percentuale con cui ha vinto Boris Johnson le ultime elezioni a dicembre. Quando gli inglesi la votarono per la prima volta, si resero conto, secondo lei, della rivoluzione culturale che la Thatcher impersonava, che non fu soltanto l'opposizione al comunismo, ma soprattutto l'opposizione allo statalismo, perché comincia con la Thatcher, prima ancora che con Reagan, la grande rivoluzione liberista che poi segnerà gli anni successivi, i decenni successivi. Ecco, gli inglesi si resero conto di questo? Sinceramente non lo so, penso di no, penso che avessero semplicemente bisogno di novità, avessero deciso di votare i Tories, lei era il leader dei Tories, quindi automaticamente sarebbe diventata il primo ministro, però avevano imparato a conoscerla come una donna coraggiosa, e nell'ambiente conservatore, pur con tutti gli handicap sociali che lei aveva, perché non veniva da una famiglia altolocata, la sua personalità penso convincesse, era molto convincente. I suoi discorsi, soprattutto dopo la preparazione che le era stata impartita dai pubblicitari della Saatchi & Saatchi con una campagna pubblicitaria elettorale che fu strepitosa, senza precedenti, quella senza dubbio ha aiutato, perché era per la prima volta focalizzata non sui pregi dei conservatori ma sui difetti dei laburisti, e questo indubbiamente ha avuto l'effetto sperato. A proposito di Johnson e della Brexit, lei si sofferma sul rapporto fra la Thatcher e l'Europa. Non fu un rapporto simile a quello che normalmente si dipinge? C'era un valore, una valenza positiva nel rapporto con l'Europa secondo la Thatcher? Senza dubbio, lei nel 75, quando ci fu il referendum per l'adesione della Gran Bretagna alla Comunità Economica Europea, come si chiamava allora, lei era era assolutamente favorevole all'adesione. Forse la sua vera l'idea che maturò sull'Unione Europea, o meglio sul funzionamento dell'Europa, è quella che espresse nel famoso discorso di Bruges nell'88, in cui però si pose come avversaria degli Stati Uniti d'Europa, cioè non voleva una centralizzazione del potere a Bruxelles, una burocrazia europea. L'Europa unita le sembrava una buona opportunità, soprattutto dal punto di vista economico, degli scambi commerciali e della difesa verso l'esterno, questo senz'altro. Nel 75 l'Europa unita rappresentava la comunità europea sempre un baluardo verso l'est, verso la cortina di ferro. Poi cambiò idea, probabilmente diventò meno europeista perché vedeva anche degli svantaggi economici, delle perdite per la Gran Bretagna, e questo non poteva tollerarlo. Grazie Elisabetta Rosa Spina, autrice di Margaret Thatcher. Buona serata. Grazie mille, buona serata anche a voi. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo per risentirci fra pochi istanti. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I fatti raccontati in modo semplice ma senza semplificazioni e spiegati in profondità affinché diventino idee da condividere. Effetto Giorno dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14. Naturalmente qui su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Domani si celebra la giornata della memoria, che ripropone il ricordo della Shoah nell'anniversario della data in cui le truppe sovietiche liberarono il lager di Auschwitz nel 1945. Molti libri escono in questa occasione, come tutti gli anni. Partiamo da due pubblicati da Diarcos, che è una casa editrice di Sant'Arcangelo di Romagna, i quali gettano luce su due figure inattese che furono anch'esse vittime dell'orrore dei lager, cioè due sportivi in ambito calcistico. Il primo fu Vittorio Straccione, centrocampista a lungo del Torino, poi della Fiorentina, che contribuì a far arrivare in Serie A, e del Cosenza, per tornare poi al lavoro di operaio alla Fiat, dove negli anni del fascismo si segnalò per la sua opposizione al regime, opposizione che gli valse l'internamento a Mauthausen, dove morì il 16 marzo del 1945. La sua vicenda è ricostruita dal giornalista Francesco Veltri ne Il Mediano di Mauthausen, 224 pagine, 16 euro. L'altro sportivo fu un giocatore e poi allenatore ebreo, Arpad Weitz, che portò al trionfo il Bologna e di cui ricostruisce la tragica vicenda il giornalista sportivo Matteo Marani in Dallo scudetto ad Auschwitz, 224 pagine, 16 euro. Prima di lui ad Auschwitz erano morti la moglie e due figli, e di Weitz la vicenda è ricostruita scrupolosamente da Marani. Dello stesso personaggio, cioè di Arpad Weitz, ci parla Giovanni Cerutti, uno storico che è direttore scientifico dell'Istituto Storico per la Resistenza di Novara, nel libro L'allenatore ad Auschwitz, Arpad Weitz, dai campi di calcio italiani al lager. È pubblicato da Interlinea, 108 pagine, 12 euro, un libro ricco anche di immagini, che ripropone appunto la vicenda di questo allenatore che nel fatale 1938 guidava il Bologna. E proprio il 7 settembre di quell'anno Weiss aveva potuto leggere un articoletto intitolato Bonifica, nel quale si lamentava che mentre nello sport italiano ci fossero relativamente pochi ebrei, la presenza fosse molto più sostanziosa nel campo del calcio, diceva questo articolo indegno. Riguardo al mondo calcistico, che è quello che ci interessa più da vicino, vi è però una zona in cui si è trapiantata, crediamo, una discreta rappresentanza israelita straniera, ed è quella degli allenatori. Non riteniamo di dover fare dei nomi, ma è certo che fra i moltissimi allenatori danubiani non mancano gli israeliti. Parole allucinanti che preluderanno alla fine dell'allenatore, che fu completamente isolato e abbandonato prima e poi morì il 31 gennaio 1944, presumibilmente durante i lavori forzati quali è stato costretto nelle miniere dell'Alta Slesia. E le parole vergognose del giornale, che era Calcio Illustrato, in qualche misura giustificano l'epigrafe posta nell'ultima pagina del libro di Cerutti, un'epigrafe a cura dell'editore, che recita: ogni singola storia che emerge dalla vicenda dello sterminio è irredenta e irredimibile, non ci sono significati umani che le possano riscattare. Ad Auschwitz pure si svolge la storia vera, raccontata da Jeremy Dornfield, che è uno scrittore saggista gallese, il ragazzo che decise di seguire suo padre ad Auschwitz, una storia vera, pubblicato da HarperCollins, 494 pagine, 20 euro, tradotto da Roberta Zuppet. La storia riguarda Gustav Kleinmann e suo figlio Fritz, che vissero un'esperienza due volte straordinaria, perché furono pochissimi gli ebrei come loro che rimasero nei campi di concentramento nazista dai primi arresti di massa avvenuti nei tardi anni 30, come ricorda l'autore, sino alla soluzione finale alla liberazione. E poi, secondo aspetto, nessuno, a quanto ne sappia l'autore, attraversò l'inferno insieme, padre e figlio, dall'inizio alla fine, per poi tornare a casa vivi. Sicuramente nessuno che abbia lasciato una testimonianza scritta. Infatti questo libro si basa sul diario segreto del padre, che era un tappezziere austriaco, che era stato arrestato dalla Gestapo ed è portato col figlio a Buchenwalde. Qui i due avevano resistito per 3 anni, finché il padre venne destinato ad Auschwitz, dove il figlio fa di tutto per seguirlo, animato da una volontà ferrea che viene espressa nelle righe che vi propongo. L'indomani mattina, prima dell'appello, cercò Robert Sievert e lo supplicò. «Hai degli agganci», disse. «Degli amici che fanno gli impiegati nell'ufficio del quartier generale. Voglio che tiri i fili necessari per inserirmi nel gruppo destinato ad Auschwitz». Sievert inorridì. «È un suicidio. Te l'ho detto. Devi dimenticare tuo padre. Questi uomini saranno tutti gassati». Fritz, tuttavia, fu irremovibile. «Voglio restare con mio padre, qualunque cosa succeda. Non posso continuare a vivere senza di lui». Sievert cercò di dissuaderlo, ma invano. Alla fine dell'appello andò a parlare con il tenente Max Schöbert, il vice comandante. Mentre i detenuti si mettevano in fila per andare al lavoro, si udì un ordine. «Prigioniero 7290 al cancello!» Fritz raggiunse Schöbert, che gli domandò quale fosse il problema. Era il punto di non ritorno. Facendosi forza, il ragazzo spiegò che non sopportava il pensiero di essere separato da suo padre e chiese formalmente di essere trasferito ad Auschwitz con lui. Schöbert scrollò le spalle. Non gliene importava nulla di quanti ebrei venissero mandati a morte, perciò acconsentì. Dopo la guerra Fritz si sarebbe dedicato a mantenere viva la memoria della Shoah con libri e conferenze, e infatti l'autore conclude: i Kleinmann non si erano soltanto salvati, ma avevano anche prosperato. Con il coraggio, l'amore, la solidarietà e la pura fortuna erano sopravvissuti a coloro che avevano cercato di distruggerli. Loro e i loro discendenti si moltiplicarono, sparpagliandosi per il mondo e perpetuando nelle generazioni l'amore e la coesione che li avevano sostenuti nei momenti più bui. Dalla promulgazione delle leggi razziali parte il libro di Sandro Gerbi, Ebrei riluttanti, pubblicato da Oepli, 158 pagine, 16,90 euro. A seguito appunto delle leggi del 38, il padre dell'autore, Antonello Gerbi, economista, una delle colonne della Banca Commerciale, dovette abbandonare l'Italia per il Perù, come poi fecero i suoi fratelli che si rifugiarono negli Stati Uniti. E in Perù appunto nasce l'autore, Sandro, che qui ricostruisce un processo particolare, quello della graduale secolarizzazione della sua famiglia. Anche Sandro Gerbi ricorda un sentimento spesso diffuso nella comunità ebraica, nonostante l'importante posizione conseguita. Il padre non aveva per nulla previsto quanto sarebbe successo agli ebrei, scrive Sandro, che il padre riteneva inverosimile che gli ebrei italiani, ormai totalmente integrati nella vita nazionale, comunque pochi, 47.000 circa, cioè l'uno per mille della popolazione locale, potessero essere realmente perseguitati. La storia della famiglia a Lima e poi il ritorno a Milano non è mai particolarmente condizionato dall'appartenenza alla religione ebraica, scrive infatti l'autore, che anche in casa nostra la religione a vita era qualcosa di remoto, pochissimi brandelli della nostra cultura d'origine riemergevano talvolta a scuotere le nostre sorde coscienze di ebrei assimilati. Noi Gerbi eravamo al di sotto del minimo sindacale, non celebravamo né il digiuno annuale, il Kippur, né la Pasqua, Pesach, la ricorrenza con cui si commemora la liberazione del popolo eletto dalla schiavitù dell'Egitto. Sandro scoprirà poi Israele nel 1967, comincerà a lavorare alla banca italo-israeliana e riscoprirà le radici ebraiche incrociando molti importanti intellettuali di origine ebraica. Un ebreo illustre italiano che alla Camera a gas riuscì a sfuggire è Ettore Modigliani, che fu il direttore della Pinacoteca di Brera tra il 1908 e il 1935, dalla quale Pinacoteca fu allontanato nonostante il lustro che il suo lavoro aveva assicurato a quell'istituzione. Allontanato per scontri politici con un potente esponente del regime fascista, che prima lo esiliò in Abruzzo e poi lo espulse dall'amministrazione pubblica dopo appunto le leggi razziali del 38. Modigliani si diede una vita clandestina che gli consentì di salvarsi dalla deportazione, nella quale poi incapparono altri esponenti della sua famiglia. Questa e le vicende di una vita professionale ricca ed esemplare furono ricostruite dallo stesso Modigliani nelle sue memorie, che col sottotitolo La vita movimentata di un grande soprintendente di Brera vengono proposte da Schirà, 304 pagine, 25 euro. E i meriti di Modigliani, direttore di Brera, sono sottolineati dal suo attuale successore, James Bradburn, che nell'introduzione definisce il suo antico predecessore come ostinato, sicuro di sé e tenace. Quando Modigliani si convinceva di una decisione, riusciva a superare qualsiasi ostacolo, fosse esso di natura politica, logistico, burocratica, per vedere il progetto realizzato. Difendeva e promuoveva le sue scelte con passione e impegno e spesso si disperava per la resistenza che trovava a Roma, opposta da politici locali o da burocrati inflessibili. Un altro coraggioso combattente che sfugge alla deportazione è il protagonista del libro del giornalista Giuseppe Altamore, Convoglio 53, la vera storia di Jean Cailleté, scampato alla deportazione, pubblicato da San Paolo, 156 pagine, 18 euro. Il protagonista di questo libro ha contribuito con i propri ricordi alla stesura del libro stesso, che parla della fuga dalla Francia invasa. Cailleté infatti fugge e si unisce alle forze del generale de Gaulle, alle forze della Francia libera. L'autore Cailleté apparteneva a una famiglia di emigrati che erano sfuggiti già ai pogrom della Russia zarista, va in Spagna e da lì contribuirà alla vittoria degli antinazisti, e si può considerare Cailleté come uno dei pochi sopravvissuti a quell'esperienza terribile. E dunque la sua testimonianza assume un valore particolare anche per le parole finali con le quali Altamore ricorda e denuncia i conati antisemiti che tornano a manifestarsi in Europa e in Francia, di cui è testimonianza un numero, 5.100 ebrei francesi che nella sola prima metà del 2015 hanno deciso di emigrare verso Israele, una cifra che rappresenta un aumento del 25% rispetto all'anno precedente. Ma non c'è solo la Francia, del resto basti ricordare il recente attentato che ha avuto luogo a New York, vicino a New York, l'attentato contro un rabbino, ma e tutti gli altri episodi di cui troppo spesso sentiamo parlare. Un clima che il 96enne protagonista del libro così commenta con queste parole. Non avrei mai immaginato, dopo le sofferenze patite durante la guerra, che ci potesse essere ancora un antisemitismo così diffuso, vivo e pericoloso, rivela Cagliété scuotendo leggermente la testa e con gli occhi che fissano il vuoto. Penso che essere ebrei significhi vedersi e sentirsi come tali. È una questione intima, familiare, aggiunge. Non è facile spiegare come ci si sente di fronte al nuovo antisemitismo, specialmente se non si è praticanti, come nel mio caso. E a questo punto... Il confettino. Torna un libro che in qualche modo è un classico, un libro di Lia Levi rivisto dall'autrice dopo 25 anni dalla sua pubblicazione, Una bambina e basta, raccontata agli altri bambini e basta, illustrato da Zosia Gierkowska e pubblicato da HarperCollins, 136 pagine, 13 euro. Questo fu il primo romanzo dell'autrice, il primo fortunato romanzo dell'autrice, e anche qui una bimba troviamo che si salva dopo che la famiglia ebrea fugge da Torino per rifugiarsi prima a Milano, poi a Roma. Infine in un collegio di suore fino alla liberazione, alla riscoperta delle gioie di una vita non più condizionata dall'appartenenza a una religione o una etnia, dove basta presentarsi semplicemente come una bambina e non più come una bambina ebrea. Una bambina appunto e basta. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Carmelo Lauricelli, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.